ad alta voce, edizione 20 anni. Valentina Carnelutti legge Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani. 9ª puntata. Un altro testimone conferma il cambiamento di Thirst e ne fornisce una spiegazione. Si disse nel quartiere che aveva intenzione di aggiustare la faccenda. Ho chiesto a sua moglie e lei ha detto che Mrs. Sutton era stata con suo marito, ma che lui era un uomo troppo onorato per ritirare la denuncia per denaro. Anche la donna che tiene la birreria del Corvo mi ha detto che il querelante e la madre di Sutton erano stati insieme da lei. Giudice. Mrs. Thirst, la madre di Sutton, ha avuto qualche abboccamento con vostro marito? Mrs. Thirst. Sì, è venuta 2 volte a casa nostra dopo che mio marito aveva deposto. Giudice. Egli ha forse chiesto di non sporgere denuncia o almeno di dare una deposizione favorevole? Mrs. Thirst. Sì, e lui ha risposto che la giustizia doveva fare il suo corso e le ha chiesto di non importunarlo più. Questa è stata la prima volta, ma è tornata un'altra volta e ha supplicato per suo figlio protestando che era innocente e mio marito le ha risposto come la prima volta che la legge doveva fare il suo corso. Non so se è stato con lei successivamente alla birreria del Corvo o in qualche altro posto. La giuria li assolve il 15 settembre 1733. Non essendo stata trovata nessuna imputazione contro Thomas e James Alexander, il 22 settembre 1733 vengono rilasciati. Ma il ricordo dell'accusa precedente pesa ancora su di loro e il giudice vuol sapere di che cosa vivano attualmente. I 2 fratelli rispondono che l'uno fa scarpe, l'altro trasporta carbone. Dato che non ci sono accuse precise nei loro confronti, la corte si limita a raccomandare di comportarsi bene in futuro. E così, ancora una volta, i 2 Alexander se ne vanno impuniti, scomparendo dal teatro della giustizia per continuare chissà dove le loro imprese. Questa storia ci fornisce alcuni elementi interessanti. Non è chiaro di che cosa vivano i 2 Alexander. Sono pennivendoli, come li definisce un giornale, o calzolai, spillano birra o trasportano carbone. Ma è chiaro che, pur lavorando, sono in contatto con delinquenti comuni, fra i più furbi e violenti del momento. George Sutton, ladro a tempo pieno, è un frequentatore assiduo delle cronache giudiziarie, dalle quali esce sempre con grande abilità. Nel febbraio del 33 si trovava in prigione ed è possibile che abbia incontrato gli Alexander in quell'occasione. Sutton è abile nel trovare testimoni compiacenti, ma soprattutto ha una famiglia che si muove compatta in suo aiuto. Il padre è un capitano ed è considerato un uomo rispettabile. Lo stesso può dirsi di Simmons e di Baker. James Baker, detto Struck in the Mud, era stato processato insieme a Philip Thomas nel luglio 1732 per aver derubato per strada Catherine Burkett e assolto. Sarà condannato a morte nell'ottobre 1733 sulla testimonianza di un complice, Abraham Wilde. Quel che è avvenuto in questo caso si spiega da sé. Dopo aver riconosciuto tutti i rapinatori, Thirst li fa arrestare e depone contro di loro. Ma poi riceve ripetute visite della madre di Sutton che, con promesse o minacce, ottiene una nuova testimonianza. Basterà che Thirst dichiari di avere la testa confusa e non confermi la propria deposizione perché la banda venga assolta. Quando non c'è la famiglia a trarlo d'impaccio, George Sutton, così come suo fratello John e Simmons, hanno un altro sistema per cavarsela, lo stesso che usano ora i cosiddetti pentiti, che allora si chiamavano thief takers, acchiappaladri. Quando rischiano di essere scoperti, si autodenunciano denunciando i complici della rapina a cui hanno partecipato o che hanno loro stessi organizzato. Si può dire che George Sutton avesse rilevato il fruttuoso ufficio di Jonathan Wilde, impiccato nel 1725. Wilde comandava una banda di ladri e dopo ogni furto si faceva intermediario presso i rapinati della refurtiva da lui stessa fatta rubare, Contemporaneamente era anche sensale della giustizia, a cui consegnava quelli fra i ladri che protestavano contro le sue percentuali o non lo servivano a dovere. Era stato lui a consegnare il suo amico e socio Jack Shepherd e tanti altri, finché un giorno qualcuno non lo consegnò a sua volta. Jonathan Wild, insieme a Jack Shepherd, sarebbe diventato lo spregevole eroe di Defoe, Fielding, Gay e Brecht. George Sutton non divenne l'eroe di nessuno, ma le cronache ne conservano la memoria. La carriera dei fratelli Sutton. John Sutton è processato nella sessione 4-6 dicembre 1734 insieme a suo fratello George per aver assalito e derubato una donna. Mentre era a terra, George la prende a calci e le rompe un braccio. La sorella, Celia, e numerosi amici giurano di averlo visto per tutta la giornata e la sera della rapina. È di nuovo processato nella sessione del 22-24 maggio 1735 insieme a Thomas Godson e ad altri due per aver assalito e picchiato in un campo William Power per derubarlo. Godson viene assolto, ma John Sutton è condannato a morte e impiccato il 4 giugno. Nell'ottobre 1735 George Sutton e Samuel Goodman sono accusati di aver rubato due scellini a una persona sconosciuta. Stavolta, a testimoniare per lui di averlo visto in casa tutte le sere dopo le 10, sono la serva e la madre, Mary Sutton, che ricorda con dolore la morte dell'altro figlio. Sutton viene condannato alla deportazione, ma nel dicembre 1736 Robert Campbell denuncia il suo complice, George Sutton, e gli fa trovare addosso la refurtiva. A sua volta, George Sutton fa trovare il denaro addosso al complice ed entrambi sono condannati a morte e impiccati, perché questa volta Sutton ha dichiarato di non avere niente da dire e nessuno da chiamare. Poiché l'anno prima George era stato condannato alla deportazione, probabilmente è tornato di nascosto, come molti facevano, e per questo non può chiamare in causa la sua famiglia. Sutton è dunque un bandito, abituato a cavarsi d'impaccio. Ma anche il nome degli Alexander sembra conosciuto, come quello dei Sutton, di Simmons o di Baker, tutti noti banditi e rapinatori. I due ragazzi appartengono all'ambiente e tuttavia la Temple Society li considera innocenti e versa loro uno scellino al giorno per tutta la durata della loro prima detenzione. E i giudici del secondo processo li ammoniscono paternamente prima di mandarli assolti. La spiegazione è forse legata alla madre e alle cure che prestava nel quartiere a persone malate. Colpisce anche, nell'episodio che vede implicato Mr. Thirst, la sproporzione fra la modestia della refurtiva e la violenza dell'assalto. Questa brutalità ci riporta all'estrema violenza usata nei confronti di Mrs. Duncombe e delle sue due compagne. In una società in cui è tanto facile essere incolpati quando si è innocenti quanto assolti quando si è colpevoli, gli Alexander sono dalla parte di chi sa muoversi, sono pesci nell'acqua. Può darsi che, dopo averla scampata per due volte in pochi mesi, si siano spaventati e abbiano cambiato vita, o che col gruzzolo raggranellato abbiano messo su una piccola proficua impresa. Alla stessa epoca in cui gli Alexander andavano assolti, una Mary Tracy veniva accusata del furto di due guinee, proprietà di Joseph Clare. Non si sa se sia la stessa. Veniamo ora alla verosimiglianza del racconto di Sara. Se Sara avesse agito da sola, avrebbe dovuto mettere in conto fin dall'inizio l'omicidio delle tre donne. Era improbabile che nessuna di loro si svegliasse e la riconoscesse. Ma se anche l'assassinio di due vecchie malate non la impensieriva, supponendole quella natura feroce che le cronache le assegnano, vi era una robusta ragazza di 17 anni che avrebbe potuto difendersi, come fece, mentre le altre donne potevano gridare. È vero che l'appartamento sullo stesso piano era provvidenzialmente vuoto da alcuni giorni, ma è anche vero che le case del Temple sono piccole, fittamente abitate e sorvegliate dalle guardie. Le urla di tre donne si sarebbero udite. Dunque, Sara non poteva agire da sola. Ed è anche verosimile che sia rimasta fuori a fare da palo, essendo conosciuta. In tal modo le vittime avrebbero accusato tre sconosciuti. E ci sono particolari nel suo racconto che è difficile inventare. Personalmente mi colpisce quel hip che uno dei tre complici dice affacciandosi dalla porta quando tutto è finito. Hanno ammazzato tre donne, le hanno strozzate, frugate, derubate e ora vogliono sapere come chiudersi dietro la porta. Chiamano Sara fuori sulle scale e sussurrano: «Hip, come chiudo la porta?» Questo non si inventa. E poi ci sono le raccomandazioni dei complici. Fatti furba, nascondi il grano sottoterra. Raccomandazioni tutte, chissà perché, disattese. E allora perché raccontarle? È anche possibile che la sicurezza di Sara, che dopo il delitto non si allontana, non nasconde la refurtiva e si lascia arrestare, sia stata indotta dalle rassicurazioni dei complici, che conoscevano i trucchi per restare impuniti. Infine, come dice lei stessa, una volta certa della sua condanna, perché insistere senza alcun vantaggio ad accusare degli innocenti? Perché intestardirsi nella sua versione dopo aver confessato abbastanza per essere impiccata? Sara ha commesso e lasciato commettere un delitto, ma sarà impiccata per un altro. L'esecuzione. Mercoledì 7 marzo, alle 10 del mattino, Sara viene prelevata dalla prigione di Newgate e messa sul carro che la porterà all'esecuzione. Sono con lei il reverendo Piddington, curato della chiesa di San Bartolomeo, Mr. Guthrie, che ha raccolto le poche notizie che abbiamo della vita di Sara e ne scriverà la storia, come sempre faceva con i condannati che conduceva al patibolo. Di Guthrie parlerà il poeta Alexander Pope. Ian Guthrie saves half Newgate by a dash. Anche Guthrie salva mezza Newgate con un trattino, riferendosi alle memorie dei criminali che lui pubblicava e in cui la tipografia sostituiva il nome con un trattino. E il reverendo Middleton di St. Bride. Sara parla devotamente con loro mentre il carro percorre l'Old Bailey, Fleet Street e si ferma all'altezza di Mitre Court, davanti alla porta che conduce al Temple. La strada, la piazza e i dintorni sono così gremiti che una certa Mrs. Strangeways racconterà di essere tornata a casa passando sulle teste degli spettatori. I palchi sono strapieni, tanto che uno, vicino a Mitre Court, cadrà sotto il peso e alcune persone resteranno ferite. Ma la cronaca che registra la più grande folla che si sia vista a memoria d'uomo si stupisce che non vi siano stati danni più gravi. Sara indossa un vestito di crepe e una cuffia di ermisino. Un giornale che pubblica una delle incisioni selvagge che proliferano in quei giorni, opera di tale Mr. Urban, insinua che si sia truccata. Per tutto il viaggio parla, prega e piange con i pastori, ma arrivata sul luogo dell'esecuzione si riprende e si rivolge alla folla. Dice che ha affidato ai tre prelati la sua confessione, con il racconto genuino dei fatti, e che spera che il reverendo Piddington la pubblichi. Con gli occhi cerca tra la folla il suo padrone, Mr. Carroll, e poiché non lo vede, dichiara pubblicamente di volerlo discolpare di ogni sospetto che sia caduto su di lui durante il processo. Così Sara recita la sua parte sull'ultimo teatro. Da quando è cominciata la sua vicenda, il pubblico non ha smesso di crescere. Ora a guardarla, a raccogliere ogni parola, c'è una folla immensa, pigiata e attenta, che segue ogni gesto col fiato sospeso. Ciascuno di loro racconterà agli assenti come si è comportata davanti alla morte. Così avviene per tutti i celebri malviventi. Così è successo col pavido Jonathan Wilde, col valente Jack Shepherd. La folla segue con avversione o entusiasmo, ma soprattutto con furiosa curiosità gli ultimi momenti. È questa solitudine di fronte al suo pubblico che spaventa Sara fino a gettarla in convulsioni di terrore, fino a desiderare di morire due giorni prima insieme agli altri condannati. Ora Sara ha finito il suo testo. Accanto a lei, sulla carretta, è salito il boia, familiarmente chiamato Jack Ketch. Un giornale della sera incline al patetico, dopo averla descritta mentre sulla carretta che avanza si torce le mani piangendo, dice che a questo punto Sara si appoggia al suo carnefice e poi sviene. Ci vuole un po' di tempo per farla rinvenire. Al risveglio il boia, sempre secondo la patetica cronaca serale, le dà un bacio prima di impiccarla. E dalla piazza un uomo salta sulla carretta e cerca anche lui di baciarla, ma Sara, che ha preso il bacio del boia, rifiuta questa confidenza. È a questi eventi che si riferisce la sobria cronaca del mattino quando dice che una volta rinvenuta, dopo una breve sospensione, fu giustiziata. Quella breve sospensione è il momento in più della vita di Sarah Malcolm. Ogni esistenza, possiamo pensare, ottiene un momento in più, quello che vorremmo con ogni residua forza afferrare. Il momento per eludere la sorveglianza, il momento per approfittare della debolezza, il momento per saltare dalla carretta, il momento per sfuggire al proprio destino, dargli un colpo di pollice, farlo virare. Quel momento in più è la folata di vento che sveglia la vela, è la campana che sospende l'ora, è un momento silenzioso, attento. Come ogni altro, svanisce, decade. L'occasione è perduta. Ma c'era l'occasione? Che occasione poteva afferrare Sara sulla carretta circondata dai prelati, dal boia, dalla folla assetata? La cronaca del mattino registra quel momento, la cronaca della sera la riempie di baci. Che poteva fare di quel momento in più? Il tempo per un'altra orazione, un'altra raccomandazione, un altro sguardo alla folla, al cielo di Londra, agli ultimi piani delle case, alla porta del tempo, a qualcuno che non vede. Un altro momento di vita in più. Ora, avrà detto il boia. Le avrà legato il cappio al collo, l'avrà assicurato bene e avrà frustato i cavalli. Mentre il carro già si muove, Sara grida: «Oh, il mio padrone, vorrei vederlo!» E poi mormora: «Dio abbi pietà di me, Dio abbi pietà di me!» Oscillò per 22 minuti, uno per ogni anno di vita. E poi il cappio venne tagliato e il suo corpo ricondotto a Newgate e consegnato a un impresario di pompe funebri di Snow Hill. La folla si riversò là e pagò per vederla. Fra questi un gentiluomo in lutto stretto la baciò e diede agli inservienti mezza corona. Seppellita nel cimitero di Saint Sepulchre, il suo corpo fu poi preso in consegna dal professor Martin, che lo sezionò ed espose lo scheletro in una cassa di vetro nel giardino botanico di Cambridge, perché le ossa di una così famosa e misteriosa assassina fossero oggetto di studio e di futuro insegnamento. Le ossa di Mrs. Duncombe riposano sotto il pavimento della chiesa del Tempio, mentre quelle di Elizabeth Harrison e Anne Price condividono una stessa cassa nel cimitero intorno alla chiesa. Valentina Carnelutti ha letto Il ritratto di Sarah Malcolm di Ginevra Bompiani, a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce, edizione 20 anni, è un programma Rai Radio 3.